serra. La scienza militare geometrizza gli organismi, la prassi sterminatrice sopprime tutti i sofismi. Un'inondazione rossa avvolge la piana dei Tartari, è l'arte della guerra. Sun Tzu, Carbon Clausewitz, gusto ferruginoso nell'acqua dei gargarismi, la variabile nera del teorema dei cataclismi, la cremazione impura sopra gli indumenti laceri, è l'arte della guerra. Sun Tzu, Carbon Clausewitz. C'è così freddo, fammi respirare un altro inferno. Dimmi come mai adesso non è più lo stesso. Dimmi ciò che vuoi, tanto poi rimarrà solo il silenzio. Non conto i lividi e non contengo i brividi. Contengo mille demoni ma tutti troppo timidi. Contento a tratti, mi accontento di sperarci. Non ho più fiato da perdere né tempo da sprecarci. Cosa vuoi farci? Siamo tutti troppo marci dentro per affezionarci e dedicarci ancora tempo. Dovremmo starci in fondo al gioco delle parti, ma il mio cuore in mille parti e dentro me si sta spegnendo. Chi sta spendendo ancora vita per la vita è morto. Piano sta marcendo dentro e manco se ne è accorto. Noi siamo a corto di ali, angeli a metà, solamente mezze verità. Che cade in un idrato, un altro cuore secco. Ho cercato il mio destino in un quaderno, ma ogni pagina era scritta ancora prima che venisse aperto. Il tempo passa ed il silenzio lo protegge. Non ti accorgi che è passato fino a quando non lo si corregge. Spara schegge nella testa, sa che un albero che cade è più chiassoso di una foresta che cresce. E mi rincresce dirlo, ma sto cadendo a fondo ancora a fondo. Non è mai troppo per raschiare in fondo, e per rischiare il conto è sempre troppo in rosso. Troppo rosso in questo mondo, mentre il nero copre in un secondo. Ricopre tutto quanto. Questo è un brescia, lo sanno. Finché il buio resterà, loro si salveranno. Come si è giunti a questo, in pochi qua lo sanno. E danno colpa a chiunque tranne a chi ha causato veramente il danno.